piacer mi fa. Oh, ah. Se l'ultimo mio amore fa il capriccio se ne va. Oh, oh, ah. Oh, ah. Quanta felicità. Oh, ah. Per un amor che muore un altro grande nascerà. Io non domando perché, non dico ti scrivere, ma se da te io verrò, ti dico ciao me ne oh, oh, oh, ah. Oh, ah. Quanto piacer mi fa, oh, ah. Se l'ultimo mio amore fa il capriccio se ne va. Felicità, oh, ah. Per un amor che muore un altro grande nascerà. Io non domando perché, non dico ti scriverò, ma se da te io verrò, ti dico ciao me ne vado. Quanto piacer mi fa, oh, ah. Se l'ultimo mio amore fa il capriccio se ne fa. Oh, oh, ah, ah.